9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti, era che primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì 11 dicembre, auguri a chi si chiama Damaso. Allora, al centro della puntata di oggi, un interrogativo che a distanza di più di 3 anni dall'inizio dell'eurocrisi, cioè da quando abbiamo deciso che la discrezionalità politica nel giudicare la convergenza dei diversi paesi euromembri, quella affidata all'Ecofin, al Consiglio Europeo, non funzionava, perché molti avevano barato, avevamo barato noi, avevano barato i tedeschi, avevano barato i francesi, i greci poi avevano mentito per 15 punti di PIL. Ecco, vi ricordo che 3 anni fa si decise che, siccome il filtro politico di convergenza non funzionava, ci sarebbe stato il filtro quotidiano dei mercati, e i mercati avrebbero giudicato dopo 8 anni in cui non avveniva, il rischio sovrano di ogni paese giorno per giorno. Sarebbero stati loro il giudice quotidiano del rischio sovrano, che tornava a differenziarsi. Per questo i paesi che fino a quel momento avevano approfittato, erano stati beneficiati, come l'Italia, dei bassi tassi di interesse per 8 anni, i primi 8 anni dell'euro, perché avevano avuto i rendimenti dei titoli pubblici praticamente allineati, tranne che per pochi punti base, a quelli tedeschi. Da quel giorno iniziò il disallineamento e sono passati 3 anni, l'europolitica ancora soluzioni vere e proprie non ne ha trovate, continuiamo a diluire nel tempo le risposte da dare alla Grecia, alla Spagna, all'Italia, ma di fatto l'Italia ancora non ha capito politicamente che cos'è questo fenomeno, e quindi ogni volta che c'è un rivolgimento, un anno fa quando Berlusconi ci portò al commissariamento e andò a casa di corsa, per fortuna, in una illacrimata sepoltura, adesso che torna a battere i pugni sul tavolo e Monti ha un annuncio di sfiducia, non una sfiducia vera e propria, ma un annuncio di sfiducia, risponde con un annuncio di dimissioni, e l'Italia ieri balla sui mercati, eppure a distanza di anni e anni ancora la politica italiana questo fenomeno lo maneggia, per così dire, proprio uso e consumo, ma dando mostra di non averlo capito. Ergo, le dichiarazioni di questa mattina ancora di Berlusconi parlano, ve le leggo, eccole qua: lo spread è un imbroglio, è un'invenzione con cui si è cercato di abbattere una maggioranza votata dagli italiani che governava il paese. Prima ne avevamo mai sentito parlare, se ne parla solo da un anno. E cosa ce ne importa, dice Silvio Berlusconi al Mattino 5, cosa ce ne importa? Il premio al rischio sovrano, incorporato nel costo del funding delle banche, è trasferito e traslato sui clienti. Che cosa ce ne importa? Che me ne deve importare a voi se su un mutuo, su una richiesta di prestito, su un progetto per la vostra impresa si applica integralmente questa roba? Ve ne deve forse importare qualcosa? Berlusconi dice di no. Poi Berlusconi sta annunciando una raffica di altre cose, per esempio che verranno ricandidati solo il 10% dei parlamentari, lo dice sempre alla telefonata di Mattino 5. Il 50% dei candidati verrà invece dal mondo delle imprese, il 20% dalle amministrazioni locali, dove c'è chi si è comportato bene, ha dimostrato di saper lavorare, e un 10% dal mondo della cultura, solo un 10% dei parlamentari attuali. Novità, quindi molta novità. Butta fuori gli ex AN, perché dice che con la legge elettorale in vigore, se gli ex AN si tornano a dividersi, ci sarebbero dei vantaggi per loro e per la formazione erede di Forza Italia, perché annuncia anche che tra le ipotesi c'è il ritorno al simbolo del 94. Quindi è proprio vero che il giudizio internazionale nei confronti dell'Italia è tutta una storia, per così dire, è una pura invenzione per scavallare il povero Berlusconi, questo fresco virgulto della politica che vi promette ancora le grandi novità, il vecchio ritorno del simbolo, il 50% che viene dal mondo delle imprese, che ci rifà votare con il l'obbrobrioso Porcellum. Non lo so, certo a vedere più della stampa italiana non si direbbe, perché a mio giudizio più che giustamente invece i giornali come Corriere della Sera hanno riempito pagine dicendo l'incertezza allarga lo spread, persi altri 4 punti, borsa giù, Roma rischia di restare senza il paracadute europeo. Io tra l'altro ero della tesi che l'Italia con Monti doveva chiedere gli aiuti OMT prima ancora che tutto questo avvenisse, e adesso naturalmente non avverrà e sono ancora più preoccupato. Sul Corriere della Sera si apprende che Hollande, il presidente francese, ha rivelato che Mario Monti non è in disarmo, farà parte di una coalizione, e c'è poi un'altra pagina sul Corriere che descrive il pressing dei leader europei sul Premier. Italia osservata speciale, Europa preoccupata per i dopo Monti, con un pezzo del corrispondente da Berlino che parla di una Angela Merkel che teme il ritorno del sentimento antitedesco, e ne avrebbe fatto, ne farebbe volentieri a meno, visto che di qui a un anno si vota alle politiche anche in Germania con un risultato molto aperto. Vi ricordo a tutti che il candidato dell'SPD a guidare il governo sarà Pinch Steinbrück, che è, come vogliamo dire, la parte rigorista filo europeista dell'SPD, ma di un rigore sensibilmente diverso dall'idea di una sinistra tassa e spendi, almeno è noto per le sue prese di posizione in questi anni di questo tipo qua. Poi bisognerà vedere per vincere le elezioni come si contrassegnerà la sua proposta politica. Si parla di un voto il 17 o il 24 febbraio, gli altri giornali sono pieni già del conto di chi va a casa e chi no tra i professori del governo Monti. La Repubblica ha puntato molto sulla copertina di Libé, di Liberazione, che parla di ritorno della mummia a proposito di Berlusconi, ed è dell'Italia vista da fuori, per così dire, che vogliamo parlare oggi, e vogliamo sentire il vostro giudizio su questo come ascoltatori, per capire se pensate che Berlusconi abbia ragione a dire freghiamocene, è un'invenzione, non c'è mica un problema aperto nell'euro, ma figuriamoci, oppure se invece pensate che questa sua maniera di ragionare, proprio questa sua maniera di ragionare, lo relegherà nell'angolo rispetto ai tanti consensi che ha avuto. Allora, sentiamo all'inizio l'opinione dei nostri primi ospiti. Abbiamo con noi Tobias Piller, che è corrispondente in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Buongiorno Tobias Piller. Buongiorno. E Mario Seminerio, lo conoscete, ci serve un po' da guida, è un portfolio advisor, un economista, curatore del blog fastidio.net, col PH, fastidio.net, e ha scritto un libro di cui abbiamo proprio recentemente qui parlato, La cura letale, a proposito di gli errori nei mix di finanza pubblica compiuti in questi anni. Grazie, buongiorno Mario. Buongiorno. Allora, cominciamo con Tobias. Stato d'animo in Germania, apprensione vera o superficiale nei confronti dei rivolgimenti italiani, che cosa si legge sui giornali tedeschi? Esattamente, la Germania mi sembra abbastanza unanima a dire, ma Berlusconi non voleva andare in pensione e non poteva risparmiarci altre bizzarrie, più o meno riporto così come succo queste due frasi. Poi la questione è anche fin dove la Germania deve intromettersi nella politica italiana. Certamente in linea di massima per niente, perché così eleggono il governo gli elettori italiani. Dall'altro lato, quando l'Italia comincia a chiedere garanzie tedesche per un fondo di salvaggio italiano, per un fondo di salvataggio europeo che deve anche eventualmente essere pronto per aiutare l'Italia, quando chiede di usare questo fondo poi anche per diminuire questo spread di cui Berlusconi prima ha detto che non importa, così i tedeschi dovrebbero invece mettere a disposizione, o hanno già messo a disposizione, delle garanzie, anche dei soldi per questo fondo. Se così questo spread è troppo alto, così viene chiesto ai tedeschi di eventualmente intervenire a abbassarlo con i loro soldi, allora forse cominciano a avere voce in capitolo. Poi i mercati dovrebbero anche avere voce in capitolo quando si chiede ai mercati di finanziare parte del debito italiano. E allora se invece il debito italiano, come negli anni 70-80, venne finanziato prevalentemente dai risparmi degli italiani, ai quali allora non si permetteva di portare i soldi fuori dall'Italia e potevano o mettere lì sul libretto di risparmio o comprare bot, allora era diverso, ma oggi non tutto il debito viene finanziato dai risparmiatori italiani. Allora se si vuole dei soldi prestati dall'estero, certamente l'estero si fa un'idea su come sarà l'Italia nel futuro. Lo spread è per 10 anni, per titoli di 10 anni, così quelli che scadono nel 2022, quelli titoli poi si deve fare, non è prevedibile cosa succede fino a lì. Allora ognuno si fa una previsione magari anche dalla pancia, ma dice: quante riforme fa l'Italia, quanto cresce, quanti governi cambierà in questi 10 anni, e se ci sono delle cose impreviste, se ci sono delle sorprese, se ci sono delle bizzarrie, certamente la reazione della pancia è: allora forse non è così prevedibile, sicuro come altri, e allora lo spread sale. Allora, Mario Monti ha una sua strategia, per il momento non troppo perspicua. In Norvegia, ai giornalisti che gli chiedevano, ha detto: non penso di tornare al governo, almeno in questo momento. Dopodiché il momento potrebbe essere quello della risposta al giornalista norvegese, potrebbe essere alcuni giorni. Sui giornali trovate, cari ascoltatori, tutte le possibili ipotesi, da quelle di un Mario Monti che scende direttamente in campo di fronte a una formazione di centro, insomma, di Montezemolo e Casini, che era in realtà arrivata, non dico la rottura, ma la frizione è molto forte. Montezemolo aveva detto quasi che non valeva la pena più andare avanti. Trovate l'ipotesi nella quale Monti anima in prima battuta, in prima persona, un po' come Giovanna d'Arco, prende il vessillo della riscossa e lo porterebbe fino a dopo sopra il 20% addirittura dei voti. C'è chi invece argomenta: ma perché dovrebbe fare una cosa simile? Resterebbe molto di sotto della soglia del PD e dovrebbe fare campagna elettorale, certo inequivocabilmente più contro Berlusconi che contro il PD, però anche contro un po' il PD. E a quel punto però come si fa a fare una maggioranza in Parlamento con il PD e Pierluigi Bersani solidamente primo partito? C'è chi dice l'una, c'è chi dice l'altra. Non credo che tutte queste indecisioni italiane contribuiscano a renderci un pochino più comprensibili in sede europea e da parte dei mercati. Goldman Sachs ha cambiato il segno, molti giornali italiani, o meglio alcuni, parlano della giravolta di Goldman Sachs, dicendo: aumenta il rischio, vedete, bond italiani, quando poche settimane fa Goldman Sachs aveva invece descritto uno scenario in cui i toni di apprezzamento per quello che aveva fatto Mario Monti prevalevano larghissimamente sulle note preoccupazioni, che invece tornano. Allora, Mario Seminerio, dal suo osservatorio, giudizio e conseguenze della mossa di Berlusconi, della risposta di Monti, mercati e partner europei, che tipo di cosa vede dal suo ponte? Ma allora, diciamo questo, per quanto riguarda, partiamo dal fondo, per quanto riguarda la presa di posizione di Goldman Sachs, credo che sia un non evento, perché quelle sono raccomandazioni tattiche che vengono date ai gestori di portafogli. I portafogli obbligazionari vengono costruiti in funzione di un benchmark, cioè di un indice di riferimento dentro il quale i vari paesi hanno un determinato peso. Quando tatticamente si suggerisce agli investitori di stare corti su quel determinato paese perché si prevede un aumento di volatilità di breve periodo, non si dice niente di drammatico, non si fa un complotto, non si attenta alla democrazia del popolo italiano e nemmeno di quello spagnolo, visto che siamo praticamente a ruoli invertiti e ce li scambiamo di frequente, per cui questa posizione di Goldman, che tanta eco sta avendo sui giornali italiani, mi sembra semplicemente una raccomandazione tattica di breve termine in funzione dell'aumentata volatilità dello scenario politico italiano. Per quanto riguarda la presa di posizione di Berlusconi, che cosa si può dire? Io stamattina ho sentito a mia volta il discorso che secondo il quale lo spread non c'entrerebbe più di tanto, è una truffa, eccetera. Lo spread è un numero ed è anche il costo del denaro per questo paese. Quindi sembra di essere ritornati a distanza di un anno alla famosa fiaba dei ristoranti sono pieni e gli aerei non si riescono a prenotare per tempo. Bisogna fare molta attenzione, perché se il codice di comunicazione è sempre quello di dire guardate che questa è una crisi psicosomatica, ve la stanno raccontando, qui c'è l'esigenza che questo paese diventi rapidamente adulto, altrimenti si risveglierà in una discarica e la situazione non sarà per niente piacevole. Quello che ha fatto Monti nell'ultimo anno è stato eseguire in maniera assolutamente puntigliosa un'agenda che ci è stata data dall'Unione Europea sotto dettatura tedesca. Mia posizione è abbastanza nota, però la ribadisco. Questa stretta fiscale che è stata imposta al nostro paese, che è pari, ricordiamo, a 5-6 punti di prodotto interno lordo in un biennio, avrebbe ammazzato anche un cavallo. Quindi ci fosse stato Monti, ci fosse stato Berlusconi, ci fosse stato il Padre Eterno a Palazzo Chigi, con questo ordine di magnitudine di stretta fiscale i risultati non sarebbero cambiati, perché è nota l'ansia tedesca di portare tutti i paesi violatori, diciamo veri o presunti, a pareggio di bilancio il prima possibile per potersi rilassare, per non correre il rischio di dover partecipare ai salvataggi, e pertanto sono state imposte delle misure che sono drammaticamente autolesionistiche. Io non mi stupisco per niente del fatto che tutte le metriche di deficit e di debito sono peggiorate. Non voglio impancarmi a quello che l'aveva detto, però l'avevo detto, c'è un mio libro da leggere, ci sono dei blog, dei post che io ho pubblicato sul mio sito negli ultimi 3 anni, questo è un esito che era largamente prevedibile e così si è verificato. Il percorso di consolidamento fiscale andava fatto in una maniera meno assassina. Diciamo, occorreva stringere dell'ordine dell'1% di PIL ogni anno e occorreva evitare anche da parte tedesca questi continui riferimenti alla possibilità che un paese potesse abbandonare l'eurozona, fosse esso la Grecia o qualcun altro, perché come sappiamo perfettamente, o dovremmo sapere perché ad alcuni ancora continua a sfuggire il concetto, se esce un paese escono tutti, per cui o stanno tutti assieme o cadono tutti assieme. Ora mi pare che la cancelleria tedesca abbia nelle ultime settimane, diciamo da dopo l'estate, acquisito questo concetto. D'altro canto l'ultima rata di aiuti alla Grecia è stata una classica e chiarissima manifestazione politica dove si è detto noi la Grecia la teniamo nell'eurozona con le unghie e con i denti e la tiriamo per i capelli. Infatti la Grecia di fatto smetterà di pagare interessi su quelli che sono i prestiti ufficiali. E questo è molto importante, cioè la dimensione della politica ha preso il sopravvento. Ultima cosa per quanto riguarda questo mio primo intervento, chi è stato a sottoscrivere con l'Unione Europea e con la Banca Centrale Europea gli impegni per arrivare unico paese dell'Eurozona al pareggio di bilancio nel 2013 è stato il governo Berlusconi-Tremonti. Questa è una verità che il frastuono attuale tenta e tende a coprire, però andrebbe ripetuta, perché giusto. Allora delle due l'una, o Berlusconi e Tremonti si sono sentiti ricattati da un complotto europeo e quindi dovrebbero denunciarlo, forse stanno già cominciando a denunciarlo, non lo so, però a questo punto quello che noi ci chiediamo è questi soggetti sono fit, come direbbe l'Economist, per tornare sulla scena europea, visto quello che hanno fatto lo scorso anno? Questa è la domanda che ci si deve fare. Poi per il resto vedo delle grandi dosi di cospirazionismo, di nazionalismo straccione in scarpe di cartone, queste sono cose che sentiamo da 20 anni, per cui ci vuole veramente molta pazienza cercando, diciamo, e sperando che il paese, comunque vadano le cose, sia incardinato in un determinato percorso. Però, e poi mi taccio, però se noi abbiamo e avremo un costante deterioramento del quadro macroeconomico, cioè del tenore di vita degli italiani, non illudiamoci che questo percorso di consolidamento, così come è stato disegnato a Bruxelles e concepito a Berlino, possa durare, perché ad un certo punto la popolazione si rivolta e tutti i sofismi politici e le analisi politiche che noi stiamo facendo vanno a farsi benedire e vanno al potere dei tribuni della plebe, per cui perdiamo tutti. Direi che questo rischio io condivido, è molto concreto nella realtà italiana, perché le perdite di reddito, patrimonio, di discontinuità di impresa, frutto del mix delle politiche seguite, come dice Mario Seminario, è molto vicino al punto di rottura ed è in grado purtroppo di esercitare effetti negativi proprio da serie storiche nel nostro paese, e questa è la condizione nella quale siamo, di fronte alla quale Berlusconi spaccia che adesso sarebbe un puro complotto quello che l'ha mandato via. Lo spread non conta niente, l'euro, babbo. Ricordate, aveva detto i tedeschi facciano il piacere, si levino di torno. Inizio a registrare da ieri un ritorno dei nostri ascoltatori di un'intollerante ala berlusconiana che riprende a insultare. Erano spariti da un anno, sono puntualmente ricomparsi. Questo è l'effetto tribù che Berlusconi è geniale nell'esercitare, perché ascoltatori che hanno ripreso a insultare ogni 5 secondi dicendo che dovrei vergognarmi di quale io. Stiamo parlando della reazione nelle capitali delle borse straniere nei confronti del pugno sul tavolo di Berlusconi, che vi promette adesso una lista tutta nuova, tutta bella, solo il 10% dei suoi dei suoi deputati precedenti confermati, per il resto società civile, imprese, luccicanti, paillette, gente che si è comportata bene a livello lui decide chi si è comportato bene. Vabbè. Comunque, detto tutto questo, oggi ha detto anche che lo spread è un'invenzione, un complotto contro di lui, grande governo scelto dagli italiani, eccetera. E ovviamente abbiamo sentito l'opinione di Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine, che ci ha spiegato come i tedeschi diffidino di questa levata di capo nuova dell'Italia che riaccende i riflettori dell'instabilità. Ai tedeschi non piace, manca un anno alle loro elezioni. Mario Seminiero ci ha spiegato come il mix di finanza pubblica comunque è stato tale da aggravare la crisi italiana, e questa è la continuità di Monti nei confronti della linea Tremonti, e questo è un fatto oggettivo che ci avete sempre sentito dire. Detto tutto questo, però, nessuna attenuante nei confronti del giudizio del nuovo vecchio che torna a menare il pugno. Sentiamo un altro punto di vista, l'opinione di Guillaume Delacroix, che è stato per 11 anni in Italia per l'Esecco e realizza anche film e documentari. Ha scritto un libro dedicato proprio per i lettori francesi al mistero di Mario Monti, ritratto dell'Italia post Berlusconi. Insomma, è stato abbastanza qua da capire come funzionano le cose, e contemporaneamente le ha spiegate ai francesi, e quindi chi meglio di lui per dirci a Parigi come ci vedono e come con la sua esperienza giudica lui questo ritorno di Berlusconi e questa reazione di Monti. Buongiorno e grazie a Guillaume Delacroix. Buongiorno. Allora, che opinione si è fatta di quello che sta succedendo in questi ultimi 2-3 giorni? Vorrei cominciare con un ricordo. Immagino che avete tutti in mente la famosa risata di Sarkozy un anno fa, un po' più di un anno fa. All'ultimo vertice dove era passato Silvio Berlusconi. Oggi di nuovo si ride dell'Italia all'estero e in particolare in Francia. Avete parlato del titolo di ieri della copertina di Liberazione, il giornale di sinistra che diceva il ritorno della mummia a proposito di Berlusconi. Oggi lo stesso Liberazione parla di Berlusconi come spaventapasseri, cioè da un'immagine tremenda dell'Italia, di nuovo il fatto che l'ex premier si candidi di nuovo. Sulla stampa francese oggi leggiamo questo messaggio, ma ci sono due altri e una domanda. Gli altri messaggi sono allora a destra quello del Figaro che sottolinea la paura del contagio sui mercati, il fatto che Monti è andato via può tornare la paura del debito italiano e l'impatto che possa avere sugli altri paesi europei dell'Eurozona. Terzo messaggio, quello del confronto tra i due paesi, l'Italia e la Francia, una cosa sul piano più politico, diciamo, una cosa molto interessante e che secondo me è verissimo. A destra il PDL in Italia ha un problema di successione, cioè di delfino. In realtà Berlusconi non ha mai trovato il suo delfino e una volta partito dal potere, aver lasciato Palazzo Chigi un anno fa, abbiamo visto come cosa è diventato il Popolo della Libertà. Qui in Francia abbiamo la stessa cosa, lo stesso fenomeno, cioè l'UMP, l'Union du Mouvement Populaire, si chiama così, il partito di Sarkozy, è caduto a un livello impressionante, nel senso che dopo l'uscita di Sarkozy non riescono a trovare il candidato ideale per le prossime elezioni. E questo a destra, e sempre per fare un confronto tra l'Italia e la Francia, a sinistra abbiamo votato qui in Francia Hollande, un presidente cosiddetto normale, e il vostro Bersani, scelto dalla sinistra poco fa, appare anche lui come un candidato normale, cioè dopo una destra forte, molto aggressiva, diciamo, arriva un candidato più calmo, più normale, come abbiamo parlato di François Hollande, e questo dà un'idea di quello che secondo me potrebbe succedere nelle prossime elezioni. E per terminare e concludere, la domanda che ho visto oggi sulle Echo, il giornale equivalente del Sole 24 Ore qui in Francia, e la domanda sulla possibilità di una candidatura di Mario Monti, è una domanda secondo me totalmente sbagliata, lo sapete meglio di me, l'ha ancora ricordato alcuni giorni fa il presidente Napolitano. Monti non si candiderà, e secondo me questo è l'unica cosa che sappiamo di sicuro, non si candiderà Mario Monti perché è già senatore a vita, è stato nominato senatore a vita prima di divenire Presidente del Consiglio, e in più, inoltre, nella sua vita non si è mai candidato a nulla, cioè quando è arrivato la Commissione Europea a Bruxelles l'ha scelto proprio Berlusconi, una cosa strana di cui si potrebbe anche parlare, quando è diventato presidente a Bocconi, uguale, non si è candidato, è stato scelto dal consiglio d'amministrazione della Bocconi, ma Mario Monti non è un politico, non lo dobbiamo dimenticare. E in questa sua attitudine caratteriale c'è anche un punto del carattere di Mario Monti, quello di credere che i suoi meriti parlino tanto superiormente rispetto a quelli della media che non possano, non debbano piegarsi a un atto elementare come quello di una candidatura, di un giudizio. È il meccanismo della cooptazione per merito acquisito, quello che nel carattere di Mario Monti da sempre ha contrassegnato una non proverbiale attitudine all'umiltà e alla modestia, vogliamo dirlo? Ecco, io lo dico perché ci sono incappato anch'io in un giudizio del professor Monti tanti anni fa. Avevo scritto un pezzo che era di banale illustrazione divulgativa di come la tesi del mercato adottata e seguita dal commissario Mario Monti alla concorrenza europea fosse molto diversa da quella che studiamo alla scuola di Chicago, che è una tesi nella quale la regolazione non è così pesante ex ante con il concetto di misurare il piano di gioco per tutti i players di mercato e che quindi finisce per stabilire quanti players di mercato ci debbano essere in ogni singolo settore del mercato, perché stabilisce a tavolino qual è il numero ideale di questo numero di concorrenti, mentre invece la tesi di Chicago è quella di essere favorevole anche a fusioni e integrazioni verticali e orizzontali se sono in condizione poi di portare dei vantaggi credibili per il cliente a livello di prezzo, e quindi una regolazione soprattutto ex post. Tanto bastò per avere una telefonata sdegnatissima al professor Monti che mi intimò di non citare mai più il suo nome, perché non avevo i fondamentali per così dire, per permettermi di esprimere critiche di quel tipo. Non lo dimenticherò mai, perché quando si ricevono le telefonate di quel tipo, con quel disprezzo che vibrava nella voce, significa che capisci con chi hai a che fare. Quindi non me lo sono mai dimenticato. Equivale a me il giorno in cui Berlusconi mi buttò fuori da Rai 1, oppure insomma, ci sono dei giorni topici nei quali capisci davvero il messaggio che ti vuole far arrivare il tuo interlocutore. Bramonti ha molti meriti rispetto alla straordinaria levità del sopravvissuto a se stesso Berlusconi, che oramai traparla. Di sicuro anche Mario Monti non è proprio mondo da peccati. Ha svolto un mestiere in questi 12 mesi un po' ingrato, quando, come pochi minuti fa, sull'agenzia ha respinto l'ipotesi che ci potesse essere una strada alternativa di finanza pubblica alla sua. Secondo me pecchia di superbia. La strada alternativa c'era, era con le dismissioni degli attivi pubblici, era quella che ci fa dire che la patrimoniale deve pagare lo Stato e non i cittadini, e questa strada c'è, e non basta la superbia per dire che non c'era come alternativa. Va bene, allora grazie anche a Guillaume. Iniziamo con qualche telefonata, una rapida, poi andiamo alle strade e poi ancora le altre telefonate. Cominciamo con Marina, che ci chiama da Lecce. Prego Marina. Buongiorno. Guardi, io volevo fare innanzitutto più che una riflessione, porre una domanda. Innanzitutto al signore di prima vorrei dire che nemmeno la Francia ha tanto da ridere. E in un secondo momento vorrei dire questo: ma come mai voi che siete degli economisti, siete degli addetti ai lavori, sicuramente lo sapevate già da prima, ma quella persona normale che si chiama Bersani, come tanti altri, dov'erano quando il nostro debito pubblico viaggiava inesorabilmente verso l'orlo del baratro? Ci siamo svegliati all'improvviso, dove? Abbiamo scoperto lo stress. No Marina, ma l'hanno fatto tutti quanti insieme al governo, ecco, una volta, ecco, un pezzo alla destra, un pezzo alla sinistra, non è che insieme hanno fatto entrambi negli anni, sia più spesa pubblica che più debito pubblico, è così. Il problema è che chi paga la ciccia, come si dice dalle mie parti, siamo noi. Sono sempre noi. Già. Siamo sempre noi. Attenzione, guardi, lei, come molti di quelli che parlano, compresa io, forse siamo anche privilegiati. Io sono una libera professionista e, per quanto veda il mio, diciamo, tenore di vita calato tantissimo, ma comunque ancora non ho il problema di cosa mangiare, comunque ancora riesco a pagare le bollette, riesco a mandare le mie figlie a scuola. Mentre in tanti no. Direi, mi scusi. Prego, mentre in tanti no, purtroppo. Ecco, in tanti no. E fra l'altro quello che io vorrei anche dire è questo, che la politica si deve occupare della distribuzione della ricchezza, ma la ricchezza non la crea la politica, la creano i lavoratori, gli imprenditori. E allora diamo voce a chi la ricchezza la crea e smettiamola di far parlare chi la ricchezza la deve distribuire, e in questi anni l'ha distribuita malissimo. Ottimo, grazie a Marina. Io sono perché la politica e lo Stato non la piantino di impedire la creazione di ricchezza, perché quando si arriva a una politica fiscale così predatoria come in Italia, siamo a una vera dilapidazione della possibilità di continuare a fare imprese e lavoro. Questa è la mia visione di fondo, una visione molto diversa da chi crede e chiede alle prossime elezioni agli italiani di dire mettete un'altra patrimoniale in più. Questa è la visione della sinistra, non potrà mai essere la mia da questo punto di vista. Caro Jim Morrison, ispiraci tu. Paolo da Tortona, come la pensi, Paolo? Buongiorno Oscar. Buongiorno. Una considerazione molto breve. Secondo me questa volta Berlusconi ha fatto il vero regalo agli italiani, perché ripresentandosi mette alla prova di quale mediocrità possiamo veramente essere, perché con un percorso diverso anche Bersani l'ha fatto più democratico, perché l'ha fatto a Renzi, ha fatto un assist a Renzi, e secondo me Berlusconi lo fa a fermare il declino piuttosto che a tutti quelli che penso che prendano l'opportunità per ripresentarsi, perché se rivotiamo Bersani o Berlusconi, e si sono ripresentati tutti e due, diamo veramente prova che siamo un popolo molto mediocre. Questo mio pensiero, perciò bisogna ringraziare Berlusconi di essersi ripresentato. È un po' un paralogismo il tuo, però vediamo qua alla fine quale sarà il bilancio complessivo che ne faranno gli italiani. Non ho strumenti se non i sondaggi, vedremo quali sono i sondaggi. Intanto però registro una ripresa di combattività di una parte di ascoltatori che era praticamente scomparsa, era sotto traccia, mentre invece i fan, diciamo, i pretoriani in armi del difendiamo il presidente, viva viva il presidente, ricompaiono anche tra i nostri ascoltatori, quindi chissà cosa vuol dire dal punto di vista elettorale, vediamo un po'. Paolo da Milano invece, come la pensi Paolo? Paolo, ciao, sono Paolo Barrai, Mercato Libero, ciao Oscar. Ah, beh, allora ci conosciamo, ciao. Un applausone a Seminerio per l'intervento che ha fatto. Voglio solo dire una cosa, che in questo momento l'euro-dollaro sta a 1,2950, a maggio, giugno, luglio stava a 1,21, non c'è nessuna paura da parte di nessun investitore istituzionale che l'euro possa rompersi, visto che l'Italia è dentro nell'euro e senza di noi l'euro salta, e il sillogismo è semplice, non c'è nessun pericolo che Berlusconi o Monti o Bersani ci facciano uscire da questo euro, altrimenti il cambio starebbe a 1,20, tutto il resto sono panzane di Repubblica o del Corriere, quindi non credete alla stampa di partito, quella del signor Mario Monti, perché non c'è nessun pericolo, era tutto previsto, lo spread a 354 punti era due settimane fa, è stato mandato giù a 300 punti, si è fatto bello Mario Monti, ha dato la colpa a Berlusconi, Berlusconi è un fesso perché si è cascato pienamente nella trappola di Mario Monti. Signori, domani sera a Torino la blogosfera, 9 blog importanti, si incontrano per dire no a Mario Monti e per spiegare come questa è la distruzione del paese, eppure nessuno ci dà retta. La verità è che il paese viene distrutto da Mario Monti, come ha detto Seminerio correttamente, teleguidato dai tedeschi. Il vero spread che c'è oggi non è quello dello spread BTP Bund, è quello fra la borsa italiana e la borsa tedesca, che negli ultimi 12 mesi, da quando è entrato Mario Monti, la borsa tedesca ha guadagnato il 25% su quella italiana. Quando vogliono ci comprano con un tozzo di pane. Grazie Oscar. Ok, io mentre condivido il tuo giudizio sulle conseguenze politiche di Monti, questa roba del telecomandato lo sai che non posso essere d'accordo. Il fatto che esistono i telecomandi dall'estero, esistono delle prese di vantaggio, è ovvio che i tedeschi su questo sono abili, che ci sia una specie di filo rosso che muove come una specie di mangiafoco che muove le marionette Monti in Italia, ecco, io questo, per come conosco il mondo, non posso essere d'accordo con Paolo Barrai. Però gli effetti, se andate a vedere gli indici di borsa, il DAX rispetto al FTSE MIB, le cose sono andate esattamente così. Sentiamo ancora Gianluigi da Torino. Prego Gianluigi. Sì, buongiorno Oscar e complimenti per la trasmissione. Allora, io faccio proprio due considerazioni da uomo della strada. Uno è quella che, anche visto dall'estero, la conduzione del paese Italia, sicuramente con tutti i problemi che ha, dimostra semplicemente una grossa incapacità e inettitudine della nostra classe politica. Quindi non è che gli italiani siano contentissimi delle situazioni così come sono state gestite almeno negli ultimi 20 anni, e quindi questo potrebbe essere una fonte di preoccupazione. L'altra è che non si dimostra un paese solvibile, quindi più che sostanzialmente accusare gli altri, dovremmo essere capaci di dirci che siamo governati da incapaci, e forse un po' lo siamo anche noi. Questo mi sembra veramente una considerazione proprio di buon senso, ma sostanzialmente molto reale. Non possiamo gridare al lupo se alla fine siamo noi causa dei nostri mali. Ecco, questa è anche una buona conclusione di questa trasmissione, perché prima di pensare che all'estero ci siano dei complotti contro l'Italia, nelle ragioni di medio lungo periodo, 20 anni che cresciamo meno degli altri, in quelle di questi 3 anni che hanno accresciuto la perdita di prodotto e reddito del nostro paese rispetto a quella degli altri euro inguaiati per il mix di finanza pubblica che abbiamo seguito, quelle sono tutte scelte italiane. Sono scelte italiane, non di un complotto estero. Sai quanto gliene frega all'estero se oltre una minima soglia di decoro? Berlusconi è andato al di là di quella soglia, però abbondantemente. Non è che l'estero poi preferisca davvero a destra o a sinistra, preferisce un paese che non metta rischi aggiuntivi. Poi voglio dire, Abbiamo parlato di quanto, un anno e mezzo, questi tagli delle province, è tutta una chiacchiera, avete capito, non si farà nulla. I due poveri marò che sono rimasti a marcire in India, questo governo ha fatto qualcosa? Secondo voi quelle non sono cose che i partner internazionali ci giudicano da quello? Io penso di sì. Insomma, tutto il bene non sta da una parte, tutto il male non sta dall'altra. Italiani, riflettete. A domani.